Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con gli amici dell'Adico, un saluto a Gianluca Colognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, due cose che dobbiamo toccare oggi. Intanto la notizia che l'Agicom, che è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sta provvedendo con le sanzioni nei confronti degli operatori telefonici per la telefonia fissa. Sì, Francesco, è una buona notizia che accogliamo volentieri, però andiamo anche subito a specificarla per non creare confusione. Noi sappiamo che gli operatori telefonici da qualche tempo hanno iniziato ad applicare nella telefonia mobile appunto la tariffazione non più a un mese ma a 4 settimane, quindi a 28 giorni. Ciò significa sostanzialmente pagare una mensilità in più durante l'arco dell'anno, e questa tipologia di pagamento a poco qualche compagnia la stava trasferendo anche sulla telefonia fissa. E le associazioni come la nostra erano in sorte anche nei confronti della telefonia mobile in realtà, ed è intervenuta l'Agicom pronta appunto a sanzionare quelle compagnie che abbiano iniziato appunto a fare la fatturazione per la telefonia fissa a 28 giorni. Diciamo agli utenti, attenzione, che non riguarda la telefonia mobile, quindi per la telefonia mobile la fatturazione praticamente per tutte le compagnie rimane quella dei 28 giorni che è stata introdotta da poco e contro la quale comunque continueremo a batterci. Ci sono alcuni contratti che prevedono invece la fatturazione mensile, anche nella telefonia mobile, insomma, bisogna guardare bene il contratto che si fa. Parliamo d'altro invece, perché c'è un'interessante indagine che so che ci vuoi raccontare. Sì, abbiamo raccolto appunto i dati di una indagine che è stata pubblicata in questi giorni e che anche riprende appieno una nostra indagine di qualche mese fa che riguardava un po' il territorio veneziano e veneto. In generale comunque questa indagine racconta di una situazione un po' tesa, anzi abbastanza tesa, tra vicini di casa. Lo sappiamo, diciamo soprattutto al nord i rapporti di vicinato sono a volte molto tesi, e questa indagine lo conferma, tanto da dire che addirittura il 40% degli italiani, questa indagine ha coinvolto anche altre nazioni, dichiara di essere disturbato dai rumori provenienti dai propri vicini. Quindi diciamo il rumore molesto da parte dei vicini di casa è un problema per il 40% degli italiani, ovviamente del campione intervistato in questa indagine. E a questi bisogna aggiungere un altro 17%, e questo è molto curioso, che considera i propri vicini dei veri e propri impiccioni e delle persone invadenti. Francesco, devo dire che noi da questo punto di vista non possiamo far altro che confermare questa litigiosità, perché seguiamo davvero molti casi di persone che appunto hanno problemi con i vicini di casa. Abbiamo anche dei casi in cui la situazione già tesa è diventata una situazione più che tesa, quasi al limite della issa. Quindi ecco, diciamo, diamoci una calmata, perché effettivamente i rapporti tra vicini di casa sono molto tesi, magari anche a causa del periodo di crisi. Ecco, io ho notato che di solito si litiga di più quando c'è tanto caldo. Allora, il caldo crea una tensione su tutti i fronti, lo diciamo sempre anche quando siamo in auto nel periodo estivo, vediamo tutti più nervosi, anche perché stare in coda con il caldo è una cosa, stare in coda con il fresco è un altro, ed è vero che comunque il caldo è un fattore determinante nel far crescere comunque un po' il nervosismo nelle persone, perché c'è un generale senso di disagio. Però devo dire, Francesco, che anche d'inverno, ovviamente nelle città, ma molto spesso nelle campagne dove ci sono territori confinanti, non mancano gli screzi. Non mancano gli scherzi evidentemente neanche anche nel resto dell'Europa, perché comunque la ricerca mostra che in linea di massima anche nel resto dell'Europa gli scherzi tra vicini esistono e sono legati anche là soprattutto ai rumori molesti, però ricordiamo insomma che sono tanti altri motivi per cui i vicini litigano, e l'indagine ne ha sottolineati alcuni. Abbiamo detto prima l'invadenza appunto di alcuni vicini nei confronti di altri, ma anche tranquillamente gli odori della cucina e la presenza di animali domestici. Ovviamente gli odori della cucina, devo dire che negli ultimi anni sono un problema, tra virgolette, in crescita, anche perché chiaramente in molti condomini sono arrivate anche famiglie immigrate che hanno un tipo di cucina molto diverso dal nostro, con odori diversi. Molto speziata, no? Molto speziata, esatto. Oh. Che a qualcuno piace, a qualcuno infastidisce. E, certo, insomma, bisogna essere tolleranti, ovviamente, sulla cucina multietnica. E quello degli animali rimane un problema enorme, vengono fatte anche continuamente leggi, ci sono sentenze di ogni tipo. Comunque il disturbo da parte dell'animale domestico è una delle più grandi contestazioni all'interno dei condomini, e questo lo sappiamo. Sì, devo dire che personalmente c'è riscontro che oltre alla cucina c'è magari l'utilizzo di bastoncini che fanno fumo, profumati, utilizzi particolari, no? Una cosa che mi verrebbe da dire, bisognerebbe mettere come regola di condominio l'utilizzo di ciabatte morbide senza tacchi. Da questo punto di vista ti posso assicurare, Francesco, che personalmente ho vissuto un'esperienza abbastanza drammatica quando appunto avevo la mia vicina di casa che abitava sopra, che camminava esclusivamente coi tacchi dalla mattina alla sera e anche di notte. Quindi insomma, ecco, adesso a parte questa disavventura personale, però quello che dici è giustissimo, perché quando viviamo in spazi stretti, diciamo comunque in condomini, dobbiamo cercare di rispettare le esigenze di tutti. Tra l'altro, noi appunto nella nostra indagine rivelavamo esattamente come diceva l'indagine di cui abbiamo parlato all'inizio, come sicuramente i rumori molesti siano tra le prime cause di litigi, e anche gli odori, però molto spesso succede anche con gli spazi comuni, per i quali ogni condomino ha delle visioni diverse. Faccio un altro esempio, perché abbiamo avuto dei casi addirittura di persone che contestavano che i propri vicini di casa portassero la bicicletta all'interno dell'appartamento, portandola su per l'ascensore. Quindi ci rendiamo conto che veramente gli screzi possono nascere anche per nulla, però insomma il consiglio è anche quello di cercare di mantenere il più possibile rapporti di buon vicinato, cercare di avere un minimo di tolleranza, e però da parte di tutti il massimo rispetto per chi vive nel nostro stesso condominio o a fianco di noi. Allora, mettendoci tutti una mano nella coscienza e cercando di essere più bravi e più buoni, speriamo di migliorare nel tempo. Intanto ci salutiamo qui, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate sempre tante belle notizie che riguardano tutti quanti noi. Grazie all'Adico, grazie a Gianluca Codognato. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.